Giovani Leoni, a caccia nel mondo del lavoro. Bentornati a Giovani Leoni, la rubrica dedicata all'orientamento al lavoro. Gli studenti ormai sanno che occorre pensare alle prospettive occupazionali presto, mentre si studia, mentre ci si forma, e un grande dilemma per molti universitari è la scelta tra la laurea triennale e quella specialistica. Prima del nuovo ordinamento questo problema non c'era, però adesso occorre analizzare cosa serve di più, cioè approfondire gli studi, specializzarsi ma uscire dall'università più tardi, o mettersi sul mercato battendo gli altri sul tempo dopo il triennio. Io chiedo lumi a Mariano Arcelloni, partner della risorsa umane di PricewaterhouseCoopers. Ben trovato. Piacere di essere ancora qui con voi. Ecco, lei può naturalmente parlare per quanto riguarda la sua società di consulenza. Verso chi vi orientate normalmente? Quasi al 99% direi su lauree quinquennali, quindi specialistiche, per due ordini di ragione. Una è che di fatto quasi tutti i ragazzi proseguono a fare anche il biennio specialistico. Chi si ferma dopo i 3 anni sono ancora pochi. Dire che questo è un bene o un male non spetta certo a me. Comunque, di fatto, la gran parte dei laureati è laureata quinquennale. Il secondo motivo è che il quinquennale ha sicuramente, sono 2 anni in più che però danno una maturità in più certamente al ragazzo. Il problema che c'è è il fatto che si è persa un'opportunità a livello di riforma universitaria nel non dedicare veramente il biennio specialistico alla specializzazione, nel senso che il biennio specialistico tuttora non è spesso e volentieri solo un approfondimento di quello che si è fatto nel triennio precedente. L'ideale sarebbe che effettivamente dopo 3 anni i ragazzi venissero indirizzati su percorsi formativi molto indirizzati e specializzati, appunto. Cioè, chi fa marketing vuole fare marketing, fa marketing per 2 anni. Chi vuole fare revisione, fa revisione per 2 anni. Stiamo parlando naturalmente delle lauree in economia. In economia, però, penso che sia altrettanto vero anche in altre tipologie di lauree. Penso a giurisprudenza. È un triennio generalistico, poi con una specializzazione, non so, in diritto familiare, che nessuna università, mi risulta, stia offrendo in questo momento, oppure in diritto commerciale, 2 anni di diritto commerciale ed esclusivamente quello, che è quello che poi permette di arrivare a svolgere la professione sapendo già tanto di quello che si andrà a fare. Quindi il messaggio è: impieghiamo un po' più di tempo all'università con sì, la specialistica, e poi e affrontiamo magari il mondo del lavoro. E magari facciamo uno stage durante il biennio specialistico, cosa che attualmente qualche università fa. Parleremo degli stage qui a Giovani Leoni. Per adesso grazie a Mariano Arcelloni. Prego. Grazie a voi per l'ascolto. A presto con una nuova rubrica di Giovani Leoni.